così tutto gira intorno a me. L'amore mio, l'amore tuo, che brutta fine ha fatto ormai. Tu mi credevi, io ti credevo, ora tutto è morto e non c'è più. Mancano le parole, manca il modo di capire, manchi tu. Quello che mi hai dato, l'hai ripreso, era tuo, tutto qui. L'amore è